24 Mattino di Simone Spezia e con Maria Latella. Alle 8 e 15 minuti di questo giovedì 9 aprile inizia la terza parte di 24 Mattino. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, buongiorno e buongiorno Maria Latella. Buongiorno, buongiorno Simone, buongiorno ai nostri ascoltatori e alle ascoltatrici. Questa mattina, invece di cominciare come al solito col titolo di The Guardian, se si parla di Gran Bretagna, comincerei invece con la BBC. Perché? Perché la prima notizia che la BBC ha dato questa mattina ai suoi ascoltatori è l'intervista di Giuseppe Conte. Che cosa dice il primo ministro italiano alla BBC? Che l'Unione Europea rischia di fallire come progetto proprio per la crisi del coronavirus. Questo ci dà l'idea di come anche in Gran Bretagna, che se n'è andata con la Brexit, si avverta come drammatico il bivio al quale l'Europa è condannata in questo momento, e ne parleremo tra poco. Ma d'altra parte è un problema che riguarda in questo momento proprio anche le nostre tasche di italiani, quelli di imprenditori, di ristoratori, di parrucchieri. Se l'Europa non libera le risorse, non si può procedere a quell'iniezione di liquidità indispensabile. E l'Europa è anche la cartina di tornasole dell'atteggiamento dell'opposizione in Italia, perché con questa, diciamo, rigidità olandese tornano a farsi sentire Fratelli d'Italia, così come ovviamente la Lega e persino Berlusconi con l'intervista che ha dato al Corriere della Sera. Dunque, quella che sembrava una unità politica fortemente voluta dal presidente Mattarella rischia di dare anche all'esterno un'immagine di nuovi conflitti. Devo dirti, Maria, l'impressione è la chiave di tutto. Sì, devo dirti l'impressione che questa unità nazionale si fosse già infranta da qualche giorno. Comunque, vabbè, parliamo magari anche di questo, però parliamo soprattutto delle questioni europee. Qual è il punto? È che oggi c'è l'Eurogruppo, la nuova riunione dell'Eurogruppo, nella quale si tornerà a ragionare tanto di condivisione del debito, di Eurobond, quanto dell'utilizzo del fondo salva stati, del meccanismo europeo di stabilità, con l'idea di utilizzarlo senza le condizionalità previste normalmente, ossia le cosiddette riforme strutturali. Buongiorno a Piercarlo Padoan, che è stato per 4 anni ministro dell'economia e adesso è deputato del Partito Democratico. Buongiorno Padoan, benvenuto. Buongiorno a lei e agli ascoltatori. E buongiorno a Marco Zanni, europarlamentare della Lega. Benvenuto Zanni. Buongiorno, buongiorno a tutti voi. Eccoci qua. Maria, prego. Buongiorno. Allora, la prima domanda è per Piercarlo Padoan. Lei conosce bene le resistenze olandesi, dietro le quali spesso tradizionalmente si nascondevano i sussurri della Germania. Le chiedo, secondo lei è possibile a un certo punto, anche di fronte alla pressione europea, citavo appunto il fatto che stamattina la BBC come prima notizia dia l'intervista che il Premier Conte ha dato appunto alla BBC oggi, ebbene è possibile che di fronte alla pressione europea che arriva anche dalla Spagna, dalla Francia eccetera, l'Olanda possa rivedere la sua posizione, magari a condizione di poter tracciare bene l'utilizzo che l'Italia, come gli altri paesi, farà dei fondi straordinari legati all'emergenza coronavirus? Ma io mi auguro che ci sia un compromesso. Non dimentichiamoci che anche in Olanda c'è una politica interna, quindi c'è un dibattito interno su come il governo attualmente in carica si presenta nei confronti degli altri paesi. Quindi diciamo, l'argomento del vincolo esterno, della scarsa affidabilità dei partner esterni c'è anche in Olanda. Io credo che si arriverà a un compromesso, soprattutto se si abbandona, diciamo, l'idea che ci deve essere qualcosa che si chiama Eurobonds e che in ogni caso il fondo salva stati è un sistema sbagliato. Perché dico questo? Perché un elemento caratteristico del dibattito di queste settimane è stata la divisione tra chi vogliamo gli Eurobonds o non li vogliamo, però mai si è detto con chiarezza a che cosa servono gli Eurobonds. Qui il problema va rovesciato, va detto che ci sono degli obiettivi che l'Europa deve assolutamente raggiungere, che è quella di tenere in piedi la crescita e rafforzarla sia dal punto di vista economico che sociale che della sostenibilità, e eventualmente considerare strumenti che la possano finanziare. Questa è la logica giusta ed è bisogna trovare un accordo sugli obiettivi, poi sugli strumenti ci si può aggiustare. Detto questo, il fondo Salvastati, per concludere questo passaggio, è uno strumento nato per gestire le crisi bancarie, dispone attualmente di risorse importanti, più di 400 miliardi, si è parlato, come lei ricordava, di condizionalità, di assenza di condizionalità, ma lo vedo come uno strumento che non è nato per risolvere il problema della pandemia. E questo è già un punto interessante. Senta Zanni, questa anche politicamente è tutta carne al vostro fuoco, mi sembra di capire, al fuoco della Lega, no? Un'Europa che dimostra per certi aspetti degli elementi di mancata unità piuttosto forti. Ma in questo momento dire, ve l'avevamo detto, non dà molta soddisfazione, nel senso che siamo di fronte a una crisi e vorremmo vedere ben altro. Però sì, ancora una volta l'Unione Europea si dimostra tardiva, inefficace nel suo processo decisionale e nelle soluzioni che mette in campo, perché le soluzioni che sta mettendo in campo e che credo al di là dei ghirigori lessicali che usciranno dalla comunicazione dell'Eurogruppo saranno esattamente quelle che oggi ci sono sul tavolo, quindi l'apertura all'intervento del meccanismo europeo di stabilità, questo fondo SURE per la riassicurazione dei meccanismi di supporto alla disoccupazione e l'intervento della BEI con una menzione all'Eurobond. Quello che mi stupisce è che ancora una volta, e in questo sono d'accordo con Padoan, anche se per motivi diversi, l'Europa si sta concentrando e sta spendendo capitale politico, compreso il leader italiano, su soluzioni che nel migliore dei casi sono inutili, nel peggiore dei casi sono dannose, e non si discute dell'intervento più ovvio, della soluzione più ovvia, cioè quella che stanno utilizzando tutte le altre economie evolute nel mondo, che è un intervento limitato della banca centrale. Ecco, credo che io questo sia il punto. Oggi c'è un editoriale sul Financial Times che inizia a parlare di questo, a dire: signori, non possiamo discutere di prestiti perché di questo stiamo discutendo. Mi scusi Zanni, mi perdoni, che finisco. Sì, no, volevo capire cosa intende. Limitato della BCE e di pensare a sterilizzare il debito aggiuntivo che verrà fatto, perché qui c'è una questione di fondo e su questo dico attenzione. Spieghi, scusi, perché, mi scusi sì. Zanni, che cosa significa sterilizzare? Spieghiamolo. E poi diciamo anche che i debiti, quando arrivò il famoso, citatissimo piano Marshall della Seconda Guerra Mondiale, beh, non è che poi siano stati a gratis, sono stati anche ripagati. Comunque, sterilizzare, sono strumenti totalmente diversi e situazioni totalmente diverse. All'epoca ci fu uno Stato che mise dei soldi per avere ovviamente un ritorno politico e di controllo su parte dell'Europa, e questi soldi vennero ripagati. La banca centrale fa un mestiere diverso. Sterilizzare il debito cosa vuol dire? Vuol dire che di fatto la banca centrale si impegna a rinnovare, quindi a rendere di fatto nullo il debito acquistandolo in maniera e rifinanziandolo in maniera definitiva. Questo non ha alcun tipo di costo per nessuno degli stati, quindi non sono gli stati attraverso il loro bilancio che devono prestare i soldi o mettere delle garanzie per prestare i soldi, come accade con tutti e tre gli strumenti che oggi ci sono al tavolo, ma è la Banca Centrale Europea, che è l'unica istituzione al mondo che può stampare con un clic gli euro, che a mio avviso si deve fare carico di finanziare la ricostruzione, che è esattamente quello che stanno facendo altri grandi stati nel mondo. Attenzione, perché non sono d'accordo sul fatto che il MES non abbia una logica. Il MES per molti stati all'interno dell'Eurozona una logica ben chiara ce l'ha, che è contraria all'interesse italiano. Qui avremo un problema molto forte che tutti, almeno gli addetti ai lavori, conoscono, e sarà la sostenibilità all'interno delle regole che oggi sono congelate, ma che torneranno all'interno delle regole dell'Unione Europea, delle posizioni fiscali di molti stati del Sud Europa, tra cui l'Italia. Quindi, nella logica dei paesi del Nord Europa e non solo l'Olanda, il MES è necessario perché? Perché sanno che a un certo punto può darsi che, stante questa situazione, stante che il rapporto debito-PIL dell'Italia crescerà, arriverà magari al 160%, al 180%, al 200%, la posizione dell'Italia con queste regole all'interno dell'Eurozona diventa insostenibile e saranno necessarie due strade: o implode e esce e non è più in grado di mantenere la struttura dell'euro, o interviene una ristrutturazione del debito all'interno dell'Eurozona. Sì, ecco, ingabbiare l'Italia nel MES oggi per questi stati serve esattamente a preparare quel momento con la soluzione per loro meno dirompente, che è quella di una ristrutturazione del debito all'interno dell'Eurozona. Sì, a questo oggi serve il discorso sul MES. Allora Zani, adesso prima di far rispondere Padoan, dico che probabilmente i paesi del nord hanno anche presente che il fatto che non abbiamo un track record di spesa pubblica eccellente, di qualità della spesa pubblica eccellente, e quindi, diciamo così, vogliono essere sicuri che nel momento nel quale ci entrano i quattrini non li spendiamo come al solito. Comunque Padoan, una risposta su quello che ha detto Zani. Cominciamo col dire che se si comincia a dire che il MES serve a ristrutturare il debito italiano perché questo è quello che vogliono gli altri paesi, si dice una cosa molto molto pericolosa e lontana dal vero. Non c'è nell'interesse di nessuno una ristrutturazione del debito italiano per l'Italia e per il resto dell'Europa. E poi mettiamo in fila le cose senza fare troppa confusione. Cosa è successo e cosa sta succedendo? Primo, che la BCE ha messo in campo una potenza di fuoco senza precedenti e si è impegnata a farlo, il che significa che per un po' di tempo i tassi di interesse sul debito italiano, ma anche su quello degli altri paesi, continueranno. Ma questo non vuol dire che la BCE comprerà tutto il nuovo debito italiano, quindi ci sarà sempre un problema di accesso al mercato. Secondo, l'Unione Europea ha sospeso tutti i vincoli, tutto il rispetto delle regole del patto di stabilità, quindi non ci sono limiti, diciamo, legali all'espansione del deficit e quindi anche del debito italiano. Ci saranno limiti di sostenibilità, come diceva anche il collega, e su questo sono d'accordo, ma la sostenibilità come si ottiene? Con la fiducia, si ottiene mettendo in campo programmi di investimento e di crescita e quindi ottenendo un tasso di crescita sufficientemente elevato per ripagare il debito nel lungo termine, e bisogna quindi avere una politica orientata alla crescita stabile nel lungo termine, anche con riforme dal lato dell'offerta, dal lato dell'innovazione e dal lato della sostenibilità. Tutte queste cose richiedono evidentemente un governo credibile. Terzo punto, quello che si sta discutendo all'Eurogruppo è il fatto di mettere sul tavolo strumenti aggiuntivi a livello europeo per sostenere le politiche nazionali, quindi il meccanismo SURE è un meccanismo per me importante perché permette di gestire l'emergenza che sta provocando e provocherà, come ci dicono, elevati tassi di disoccupazione. Bene il ruolo della BEI per investimenti infrastrutturali, quello di cui si sta parlando, di cui si sta discutendo, è un intervento straordinario di un fondo della ripresa, adesso non mi ricordo il nome esatto a cui è stato dato, che è stato proposto tra l'altro dal commissario Gentiloni, che serve a dare una prospettiva strategica all'Europa, quindi non si tratta di mutualizzare il debito tuo con i soldi miei, ma si tratta di trovare strumenti per portare l'Europa fuori da questa gigantesca crisi, e questo è un interesse di tutti, Olanda compresa. Ci prendiamo una pausa, poi rientriamo anche con le vostre voci, alcune ce le avete già mandate, il numero è sempre il 349-238-6666 per gli WhatsApp audio e l'800-24-0024 se volete intervenire in diretta. Pausa. Mattino. Oggi è una giornata cruciale in quanto vedremo se l'Europa esiste, se l'Unione Europea esiste o no, perché se i tedeschi e gli olandesi ufficialmente, i tedeschi in maniera ufficiosa, si mettono di traverso per aiutare gli altri paesi in questo momento più in difficoltà, significa che l'Unione Europea è una bufala e quindi salta tutto il banco. A me va bene che gli olandesi non vogliano aiutare l'Italia, però la prossima volta che vorranno venire in vacanza in Italia, pagano 1000 euro a persona per entrare in Italia, altro che la tassa di soggiorno ai comuni e basta. Altrimenti se ne stanno a fare il bagno sulle loro bellissime coste dell'Olanda. Grazie. Ma in Olanda il governo è precisino anche coi propri sudditi. Qua si prende le contravvenzioni a 35 all'ora nelle zone dove c'è il divieto a 30 all'ora. Ci sono un sacco di regole qua in Olanda e siamo veramente vessati dalle contravvenzioni. Ed eccolo qua, anche un ascoltatore dall'Olanda. E poi, vabbè, il momento di nazionalismo delle spiagge. 1000 euro per arrivare in Italia, dai, su, fammi dire ai nostri ascoltatori. Uno, oggi non è il giorno dell'Armageddon. Qualcuno ricorderà, sicuramente Padoan se lo ricorderà, che quando c'è stata la crisi del 2008 ci saranno state, se ben ricordo, 80 riunioni notturne, lunghissime, eccetera, prima che si arrivasse al whatever it takes famoso di Mario Draghi. Quindi oggi non sarà l'Armageddon e dobbiamo mettere in conto che di fronte a una pandemia di questa portata e a una crisi economica che si annuncia appunto enorme, non basterà probabilmente due riunioni, tre riunioni. Questo lo dico anche a quelli che si aspettano immediatamente la soluzione di tutto. Calma, perché purtroppo i tempi non saranno così rapidi, anche se la gente avrebbe bisogno ora di avere il conto in banca rimpinguato. Quanto appunto alla nostra ascoltatrice che dice vabbè, gli olandesi facciano il bagno nelle loro spiagge, attenzione, perché ci sono anche le spiagge di Cipro, le spiagge portoghesi, le spiagge spagnole, quindi attenzione vabbè, anche su vabbè. Questo. Sì, che poi tra l'altro, ricordiamolo ancora una volta, alcuni degli strumenti dei quali si sta discutendo in queste ore, Zanni, e in parte lo accennava anche Padoan, sono in realtà strumenti un po' più di lungo termine, cioè si sta ragionando su qualcosa di strategico per far ripartire la crescita dopo, cioè gli strumenti sui quali stiamo ragionando sono solo in parte strumenti per garantire e aiutare le imprese e i paesi in questo momento esatto, e quindi anche qua i tempi non è necessariamente che debbano essere brevissimi. Allora, anche qui ormai dopo 6 anni nelle istituzioni europee ho imparato anche a riconoscere e a guardare i fatti al di là di quelle che poi sono le dichiarazioni anche dei partecipanti a queste riunioni. Oggi noi abbiamo 3 strumenti ben precisi, ben delineati sul tavolo, che sono prestiti, come abbiamo detto, a cui tra l'altro l'Italia dovrà prestare o ha già prestato contribuzioni di capitale come al MES o garanzie come eventualmente dovrà fare per il fondo Sure o dovrà fare per la BEI, perché la BEI oggi ha già, diciamo, il suo attivo abbastanza espanso. Questi sono gli strumenti sul tavolo. Poi c'è un'altra discussione molto più generale per il futuro, che è l'eventualità di questo fondo comune per gli investimenti per la ripresa. Quindi a questa riunione, alla prossima riunione del Consiglio, alle prossime riunioni, il rischio è che, come spesso è accaduto, l'Italia firmi degli strumenti che, ripeto, a mio avviso, nella migliore delle ipotesi sono inutili, nella peggiore delle ipotesi sono dannosi per noi, per un non precisato impegno a questo tipo di fondo. L'abbiamo già visto con l'Unione Bancaria nel 2013, noi abbiamo firmato per l'Unione Bancaria, abbiamo accettato di fare subito 2 pilastri e il terzo pilastro, l'assicurazione comune sui depositi, che era quello che ci interessava un po' di più, è stato buttato avanti e a tutt'oggi, a 7 anni di distanza, ancora non ce l'abbiamo, no? Quindi questo è quello che c'è sul tavolo. Volevo tornare un attimo sulla posizione fiscale dell'Italia e su quello che diceva Padoan, che sarà solo la crescita a rendere sostenibile la posizione dell'Italia. Ecco, io vorrei sapere come farà l'Italia a crescere dovendo rispettare i vincoli che, ripeto, torneranno, il patto di stabilità e crescita, il fiscal compact, e questo Dombrovskis, il vicepresidente per l'euro della Commissione europea, l'ha detto chiaramente, dovranno mantenere una posizione fiscale equilibrata. Questo vuol dire che l'Italia, con un rapporto del debito PIL al 160-170-180%, dovrà fare una cura da cavallo, dovrà fare avanzi primari ancora più grandi di quelli che abbiamo fatto e, ripeto, crescere in quelle condizioni sarà estremamente difficile. Questo è il punto. Poi una domanda che io ancora non riesco ad avere chiaro. Sì. Cioè Conte... Un po' più compatto, Zanni, se riesce. Conte sta chiedendo questo fondo, questo sforzo comune, ma dice che non vogliamo che gli altri paghino per noi e non vuole la mutualizzazione del debito. Se non vuole la mutualizzazione del debito, quindi che altri paghino per l'Italia, che senso ha ancora prestiti che poi dobbiamo ripagare? Cioè, a quel punto ce la caviamo da soli. Questo è il punto fondamentale, soprattutto oggi che l'Italia ha ancora accesso ai mercati. Perché dovranno chiedere dei prestiti con delle condizionalità anche leggere, che però possono cambiare in futuro quando l'Italia ha accesso ai mercati? Allora si chiarisca anche il governo. Vuole la mutualizzazione? Oggi la mutualizzazione politicamente in Europa è possibile perché non esiste una nazione europea, non esiste un popolo europeo. Maria, prego. No, volevo dire, Zanni, come ce la caviamo da soli? Con interventi più o meno palesi di grandi potenze, per esempio come la Russia, come ce la caviamo da soli? È evidente che un prestito a lungo termine significa a lungo termine, a 30, a 50 anni, ma su questo io credo che Padoan possa essere più chiaro. Quando noi parliamo di prestiti e abbiamo chiarito che non riguarda in nessun modo la ristrutturazione del debito precedente al coronavirus, parliamo di prestiti che andranno a 30 anni. No, non credo che ci sia nessuno che possa pensare una restituzione a breve. Mi sbaglio, Padoan, mi corregga. Vorrei dire due cose. Uno è quest'ultimo punto che lei ha sollevato. È chiaro che c'è un problema, c'è una sfida di gestione del debito la cui scadenza deve essere allungata, è cosa che l'Italia ha fatto in questi anni in modo molto efficiente, si può fare di più e si può mobilizzare il risparmio privato che spesso non sa dove collocarsi, quindi c'è una possibilità di finanziamento di investimenti a lungo termine. Poi ci sono gli investimenti, perché da dove viene la crescita? Togliamo di nuovo un equivoco dal tavolo, che la crescita si faccia con più deficit e più debito, la crescita si fa con più investimenti che devono essere pubblici e molti investimenti, sappiamo, hanno già i soldi pronti per essere spesi, ma ci sono dei problemi amministrativi e di implementazione, e poi gli investimenti privati, quindi incentivi per l'innovazione, ma anche quelle che una volta si chiamavano le riforme strutturali, perché il problema della crescita italiana, che è così debole, è un problema dal lato dell'offerta più che dal lato della domanda. I surplus primari sono quelli che si ritrovano nei paesi a più elevata crescita, non quelli a più bassa crescita, quindi c'è assolutamente molta evidenza che dice che surplus primari elevati, quindi sostenibilità del debito e crescita vanno insieme. Questo è il modello che l'Italia può e deve mettere in campo. E questo, questo ovviamente è uno dei punti. Senta Padoan, c'è una grande preoccupazione e vorrei passare anche ad un altro argomento, ed è il tema che ci stanno sottoponendo un po' gli ascoltatori in queste ore. Lei che insomma le mani in queste vicende le ha messe e quindi queste questioni le conosce. C'è una grande preoccupazione da parte dei nostri ascoltatori, partite IVA, autonomi, imprese, che per così dire ci sia una burocrazia statale e bancaria che farà sì che questi 400 miliardi di garanzie per la liquidità le imprese non arrivino nei tempi dei quali le imprese hanno bisogno. Ci sa dare un'idea, al di là delle rassicurazioni del ministro Gualtieri, che è ovvio che le dia, io lo capisco benissimo, poi è del suo partito, quindi forse sto chiedendo all'oste se il vino è buono, però insomma mi sembra un fronte rilevante. È un fronte non solo rilevante ma decisivo, e sono d'accordo che bisogna fare di tutto per superare gli ostacoli. Bisogna, per esempio, lei ha citato il sistema bancario, che è fondamentale dal punto di vista della trasmissione di queste risorse, bisogna evitare che ci siano applicazioni pedisseque di norme che evidentemente sono ancora legate a un vecchio modo di pensare la trasmissione del credito. Questo è assolutamente indispensabile perché ci troviamo di fronte a un rischio reale, cioè che l'economia imploda, caschi su se stessa, e questo non ce la possiamo assolutamente permettere. Questo richiede uno sforzo da parte delle amministrazioni pubbliche, centrali, locali, ma anche da parte del sistema bancario, che si è detto essere a disposizione di fare questi sforzi, però dobbiamo vedere di sul terreno, dobbiamo fare in modo che i comuni, per esempio, che stanno andando con le casse a secco, trovino le risorse per poter gestire i servizi pubblici, quelli che sono poi che i cittadini, di cui i cittadini hanno bisogno giornaliero, dal punto di vista giornaliero. Quindi sono assolutamente d'accordo che è essenziale la velocità dell'implementazione, oltre che le risorse ingenti messe in campo. Maria. Okay. In una intervista molto ampia e molto appassionata per essere l'intervista che arriva da un banchiere, l'amministratore delegato di Intesa San Paolo, Carlo Messina, ha lanciato un appello, mettiamola così, ai grandi gruppi industriali italiani di dare una mano al paese. Ha detto questi grandi gruppi hanno molto avuto in questi decenni, è il momento di restituire al paese. Restituire come? Facciano tornare i capitali che sono all'estero e ottengano dallo Stato delle assicurazioni, perché poi questi capitali vengano investiti nella ripresa italiana. Chiedo a tutti e due, cominciando da Zanni e pregandolo di darci una risposta sintetica, secondo voi è un appello che può trovare un seguito? Ci sono, diciamo, conversazioni in corso su questo, oppure, come dire, è un appello alla buona volontà dei singoli, qualcuno lo raccoglierà ma non ci sarà una risposta corale? Ma per ora penso sia un appello alla buona volontà dei singoli e di buon senso. Ritorno su quello che diceva Padoan prima sul tema, no? Quello di far convogliare la liquidità disponibile, il risparmio degli italiani sul finanziamento del debito pubblico, no? Attenzione, perché questa proposta ha senso esattamente solo, come dice Carlo Messina, se noi facciamo rimpatriare dei fondi che sono all'estero, perché se prendiamo i soldi sui conti correnti, sì, delle banche italiane, sì, dreniamo della liquidità dalle banche, e già i numeri che ha dato il governo anche sul decreto di liquidità, questi 750 miliardi di nuovo prestito, sono numeri fantasiosi. Vi do solo un dato: pensate che oggi i prestiti outstanding al settore non finanziario da parte di tutte le banche italiane sono 1.300 miliardi di euro. Il governo ci fa credere che in un battibaleno le banche presteranno il 60% quasi di questa cifra alle aziende. Non è credibile, e su questo mi faccia concludere, sì, sono d'accordo, credo l'abbia detto lo stesso Parvan qualche giorno fa: o c'è una garanzia al 100% irrevocabile, o le banche, al di là della burocrazia, che è un tema che c'è, i soldi non li presteranno. Non li presteranno, perché devono valutare, devono valutare il merito di credito. Non l'ho interrotta a caso, Zanni, che Padoan so che deve andare, non so se ha tempo per un'ultima risposta, 30 secondi su questi temi. Prego, Padoan. Il risparmio italiano è ingente, le banche italiane hanno, come sa l'onorevole Zanni, i loro bilanci pieni sia di titoli di Stato e un po' meno pieni di crediti. Si tratta di fare in modo che senza drenare risorse alle banche ci arrivi più credito alle imprese, quindi da questo punto di vista c'è un mix di strumenti che può essere messo in campo. Grazie Piercarlo Padoan per essere stato con noi. Buona giornata. Buona giornata Padoan. Io avrei un'ultima domanda per Zanni prima di salutarlo. Senta, cos'è questa proposta di Salvini di questo specie di bot patriottico per raccogliere 100 miliardi? Come funziona esattamente? Ma ripeto, noi stiamo ragionando proprio su questa tematica di cui stavamo parlando, cioè di far convogliare il risparmio dei cittadini italiani in maniera volontaria a supporto della crisi, con strumenti agevolati dal punto di vista della tassazione o del credito d'imposta, che possono rappresentare dei buoni investimenti, ma che allo stesso tempo aiutino l'Italia a reperire delle risorse. Ripeto, questo ha senso se si vanno a targetizzare. Zanni, forzoso? Forzoso? No, assolutamente no, questo è pericolosissimo, questo si tratta di parlare di patrimoniale, noi siamo contro qualsiasi patrimoniale, ma si tratta di mettere sul tavolo strumenti finanziari agevolati, quindi con una tassazione ad esempio del capital gain o degli interessi portata a zero, e magari con la possibilità di avere un credito di imposta per parte delle cifre investite. Questo credo sia una proposta di buon senso, a libera scelta dei cittadini, che chiaramente devono avere un vantaggio e quindi può essere uno strumento utile, ma ripeto, non se drena liquidità sui conti correnti presso le banche italiane oggi, ma se rimpatria e fa rimpatriare delle risorse che oggi sono al di fuori del circuito italiano, quindi depositate sui conti correnti o in attività finanziarie all'estero. Maria? Mi sembra che quindi lei concordi con quella che è la proposta lanciata dal capo di Intesa San Paolo Messina, mi sbaglio? Ma, assolutamente, ripeto, è una proposta di buon senso, ma attenzione all'altro lato della medaglia. Questa uscita di Messina mi fa esattamente confermare i dubbi che ho sul fatto che le banche, e ne ho certezza quasi, perché ci parlo tutti i giorni venendo da quel settore e avendo lavorato in quel settore, sono preoccupate sul fatto di non essere in grado di mettere in campo tutta quella liquidità attraverso i prestiti, nonostante le garanzie, a mio avviso, deboli che il governo ha messo in campo. Zanni, cosa vi fa ritenere che gli italiani possano mettere i soldi in debito italiano? Questo è il primo elemento. Secondo elemento, un pezzo di questo risparmio, il famoso risparmio degli italiani, è un risparmio immobiliare, cioè molti dei soldi degli italiani, in realtà la patrimonializzazione degli italiani è molto sull'immobiliare, quindi non è detto che questi quattrini ci siano e magari adesso li vogliono usare per altro. No, i quattrini ci sono, perché al di là del risparmio in immobiliare parliamo di centinaia di miliardi depositati in liquidità sui conti correnti, quindi le risorse sono a disposizione. Quello che è necessario fare per convincere liberamente gli italiani a sottoscrivere questi strumenti è, come dicevo prima, dare degli incentivi. Se io ho il vantaggio di dire acquisto uno strumento finanziario che mi paga un interesse, su quell'interesse non ci pago le tasse, che oggi sui BTP vuol dire il 12,5% sugli interessi percepiti, se magari li posso usare per scontare le tasse che devo pagare in futuro, è chiaro che questo investimento assume un incentivo. Certo, ci vuole fiducia in un paese, ci vuole fiducia in una classe politica. Io oggi non sono sicuro che gli italiani abbiano fiducia nelle potenzialità di questo governo, di questa maggioranza. I sondaggi, per quel che valgono i sondaggi, Zanni, parrebbe di sì perché invece il Premier Conte ha un gradimento che non ha avuto nessuno, però appunto è anche alle prese con un'emergenza che non ha mai visto nessuno, quindi può essere che ci sia un legame tra i due. Ma sicuramente l'abbiamo visto un legame, e prenderei con le pinze i sondaggi di oggigiorno. Ecco, parlando con la gente, parlando con chi ha piccole attività commerciali, parlando con le tante persone che vedono il proprio posto di lavoro a rischio, io tutto questo gradimento al governo non lo vedo, ma vedremo più avanti. Grazie Marco Zanni, europarlamentare della Lega, per essere stato con noi. E a chiudere questa trasmissione, i prossimi giorni sono importanti per molti, sono i giorni nei quali, per le persone che credono, si celebra la morte e la resurrezione di Gesù. Per quelli che non credono, sono comunque dei momenti di festa e di tradizione, e dunque in questa giornata, alla vigilia del Venerdì Santo, siamo voluti andare innanzitutto nei luoghi più colpiti da questa crisi, e poi a parlare con Monsignor Pierantonio Tremolada, che è il Vescovo di Brescia. Buongiorno. Buongiorno a voi. Maria, prego. Buongiorno. Monsignor Tremolada. Per i bresciani sarà una Pasqua che non dimenticheranno, e anche per lei, che è il loro pastore. Mi dice che cosa farete il giorno di Pasqua per la comunità bresciana così duramente colpita? Il giorno di Pasqua noi celebreremo la festa della resurrezione di Gesù e vorremmo proprio farlo con lo spirito che è proprio di questa festa. Arriviamo a questa festa avendo vissuto un'esperienza che appunto non dimenticheremo. Abbiamo vissuto tanta sofferenza, non possiamo negarlo, abbiamo perso tante persone care, troppe, abbiamo attraversato momenti, giorni che non avremmo mai immaginato di vivere così, e quindi però tutto questo è stato accompagnato, se mi permettete, vorrei proprio dirlo, anche da tanti segni, direi estremamente positivi, di grandissima umanità, ma l'avete più volte ricordato anche voi, dei mezzi della comunicazione sociale. Abbiamo tante persone che in questi giorni, in questo ultimo mese, hanno dato dimostrazione di un coraggio, di una dedizione, che penso rimarranno indelebili nella memoria di tutti noi. Ecco, noi arriviamo così alla Pasqua, arriviamo con un carico di dolore, ma anche con tanta speranza che è stata tenuta viva da una grande testimonianza di umanità. Monsignore, tra l'altro la chiesa bresciana e non solo, anche quella bergamasca, è stata colpita da una serie di lutti, perché anche i preti ci sono tra le vittime di questo Covid-19, intendo che anche la vostra comunità su questo fronte, no, ha subito un colpo pesante. Sì, sì, anche questo devo dire, se me lo permettete, che i nostri sacerdoti sono in prima linea, sono stati e continuano ad esserlo. Abbiamo raccomandato di non lasciar mancare la nostra gente i segni di una presenza e anche di un sostegno, e questa vicinanza ha comportato poi anche queste conseguenze. Maria. Questi giorni, Monsignore, della opportunità o meno di aprire anche solo per qualche ora le chiese ai fedeli, no? Primo a lanciare questo appello è stato Matteo Salvini, come ormai tutti sanno. Io le chiedo qual è la sua personale opinione, non il fatto che appunto le chiese non si apriranno, ma lei se potesse aprirebbe la sua chiesa? Guardi, io posso dirle questo, che abbiamo vissuto un'esperienza sulla quale dovremmo poi meditare con molta attenzione. In realtà, anche se le chiese sono rimaste vuote, intanto sempre aperte, anche se non abbiamo potuto avere la partecipazione e la frequenza della nostra gente, questo non significa che la gente è rimasta lontana, proprio no, cioè abbiamo comunque vissuto una comunione, abbiamo percepito un senso di unità che ci ha fatto anche, ci ha molto impressionato, voglio dire, anche questi nuovi strumenti di comunicazione sono stati usati, a mio parere, ecco, con molta intelligenza, con molta saggezza, con tanta creatività, per cui a me pare che il rischio che permane alto forse ci deve rendere prudenti. In ogni caso non è mancata questa comunione. E questo è un buon punto, un buon segnale. Mi può dire, Monsignor Tremolada, come li avete vissuti questi giorni, come sono stati? Guardi, c'è stata i giorni non sono stati tutti uguali. Noi credo dobbiamo riconoscere che all'inizio non avevamo idea di che cosa poi sarebbe capitato precisamente. Ci siamo via via avviati verso una sorta di, no, di centro dell'uragano, ecco. Poi i giorni del mese di maggio, il mese di marzo, la parte centrale insomma del mese, quelli sono stati giorni molto molto pesanti. Io, guardi, non dimenticherò mai il rumore degli elicotteri che al mattino si sentivano, le ambulanze che ogni giorno, il suono delle sirene. Avevi l'impressione che tutto questo non finisse mai. Adesso adagio si comincia a respirare. Abbiamo cercato però in tutti i modi di stare vicini gli uni agli altri. È emersa anche, lasciatemi dire, a distanza, Monsignore, è ben inteso, a distanza, cioè vicini gli uni all'altri virtualmente. Ma virtualmente, no, certo, virtualmente sì, proprio attraverso questi strumenti della comunicazione. Ma c'è stata, guardi, che c'è stata questa vicinanza, chiamiamola virtuale, ma nel senso che la gente si è anche molto parlata, si è usato molto il telefono, si sono usati molto i cellulari, questo l'hanno detto anche i medici. A proposito di vicinanza, so che il cardinale limosiniere del Papa, Krajewski, ha proposto ai vescovi di offrire uno stipendio una tantum, una volta, sì, per sì, condividere la sofferenza dei tanti. Che cosa pensa di questa proposta? Penso che io personalmente lo farò e lo proporrò anche ai miei sacerdoti. Guardi, sto giusto concludendo una lettera che vorrei inviare. So che il vescovo di Bergamo ha chiesto ai suoi sacerdoti di mettere a disposizione una parte del loro stipendio, e questo vorrei chiederlo anch'io ai nostri sacerdoti. Vorremmo costituire un fondo di solidarietà. Voglio dire, la base di questo fondo vorrei venisse costituita dal contributo dei nostri sacerdoti, poi allargheremo a tutti quelli che sì, vorranno. Grazie per essere stato con noi, al vescovo di Brescia, Monsignor Pierantonio Tremolada. Buona giornata e buona Pasqua, ovviamente. Buona Pasqua. Ci fermiamo, c'è GR24. Cara Maria, ci risentiamo domani alle 8:20. A domani, Simone. E con tutti gli altri, gli ascoltatori, alle 6:30. Ciao.